Letture di Radio 24. Nel solo Nord-Est sono più di 20 gli imprenditori che si sono suicidati a causa della crisi dal 2008 a oggi. Altri casi si sono registrati anche in Toscana, Lombardia e Piemonte. C'è un legame quasi filiale tra l'imprenditore e l'impresa, spiega Andrea Tomat, presidente della Confindustria del Veneto. Di fronte alle difficoltà non solo finanziarie, il capo impresa sente il mondo cadergli addosso. Di questo parla il Buongiorno di Massimo Gramellini del 7 dicembre. Gli imprenditori non salgono sui tetti, ma quando ci vanno si buttano giù. Meglio ascoltarli finché fanno ancora gli equilibristi sul cornicione. Uno di loro ha scritto a questa rubrica per disperarsi un po'. Fra i tanti lavoratori falciati dalla crisi, gli imprenditori sono quelli che suscitano meno pena, anche quando piangono miseria. Si presume sempre che abbiano abbastanza riserve di grasso intorno alla cintola per non morire di fame. Poi qualcuno si suicida. Qualcun altro sposta la baracca oltre confine e tutto si esaurisce in un borbottio di compassione o di riprovazione. Il nostro lettore racconta un copione diffuso. Due comuni devono alla sua azienda la somma di 370.000 euro per dei lavori eseguiti, mentre entro il 27 dicembre l'erario pretende da lui il versamento dell'IVA anche su quei lavori. Come un'entità diabolica e cangiante, lo Stato assume la forma del debitore moroso e un attimo dopo quella dell'esattore incalzante. Entrambi fanno ruotare la spada della legge. Il debitore si fa forte delle pastoie giudiziarie per non pagare l'imprenditore e l'esattore minaccia di mandarlo in galera se non paga. La vittima ammette di trovarsi a un bivio. O chiede i soldi che non ha agli unici che li imprestano ancora, i banchieri, no, i mafiosi, oppure trasferisce l'azienda all'estero, perché ogni buon topo abbandona per primo la nave che affonda. Vorrebbe che i politici trovassero il modo di trattenerlo per la coda, ma non comprende più le loro parole, sommerse da un frastuono fatuo. Sarà l'orchestrina di bordo che continua a suonare. Avete ascoltato l'articolo Uomini e topi di Massimo Gramellini, pubblicato sulla Stampa del 7 dicembre. Letture di Radio 24. La prima linea veloce messa in progetto in Europa è stata l'italiana Direttissima che collega Firenze a Roma. Il primo tratto venne infatti inaugurato il 24 febbraio 1977, ben 4 anni prima del tratto ad alta velocità della Parigi-Lione. Un primato ridimensionato negli anni seguenti, dato che gli altri paesi europei hanno sviluppato una rete ad alta velocità ben più estesa della nostra. Ad oggi la Spagna dispone di 2.230 chilometri, la Francia di 1.847 chilometri, mentre l'Italia dispone di 1.355 chilometri. Oggi l'alta velocità italiana compie un anno. Il 13 dicembre del 2009 entrava in esercizio il tratto Bologna-Firenze, che scavalcando l'Appennino quasi completamente in galleria, permette di collegare la Madonnina al Colosseo in 3 ore. Per Napoli bastano 4 ore e 10 minuti e gli effetti si vedono. In un anno il treno ha rubato all'aereo il primato di passeggeri sulla tratta Milano-Roma. Manca poco a Napoli e il monitor del Frecciarossa annuncia: stiamo viaggiando a circa 300 km all'ora. Buon compleanno, alta velocità. E che tu sia benedetta. Arriveremo a Napoli, ci informa ancora Trenitalia, con 4 minuti di ritardo. E che cosa vuoi che siano 4 minuti quando ci metti solo 4 ore e 55 da Milano? E ci puoi mettere anche 3/4 d'ora di meno se prendi quello che non ha fermate. La prima benedizione all'alta velocità arriva dal numeroso popolo di noi ansiosi che abbiamo sempre avuto paura, anzi terrore, dell'aereo. Fai un salto a Roma, ti diceva il capo, come un salto dal panettiere in edicola, dal tabaccaio. Invece era un aereo, un maledetto aereo. Accampavi scuse tipo: prendo il treno perché in treno si può lavorare e leggere. E così, sai, in fondo si guadagna tempo. Ma il risultato era comunque che il treno lo prendevi con vergogna. Ora guardo nel vagone di questo Frecciarossa le facce dei miei compagni di viaggio. Nessuno ha più niente da nascondere. Provate a contestarci, orologio alla mano. Noi si va dal centro di Milano al centro di Roma in 2 ore e 59. E voi, dal centro di Milano alla steppa di Linate e poi dalla Sierra di Fiumicino al centro di Roma? C'è in questo capovolgimento tra treno e aereo quasi una nemesi storica. Il paesaggio che scruti dal finestrino è quello di sempre. I campi dell'Lodigiano, le fattorie, i filari di alberi, la foschia che avvolge tutto come in una fiaba. E poi ecco San Luca, ecco la stazione di Bologna con il suo tragico ricordo, ecco l'Appennino e le sue gallerie, ecco le pecore sui colli laziali, ecco i monti innevati sulla sinistra ed ecco Napoli, le squallide periferie prima della meraviglia del Golfo. L'Italia vista dal Frecciarossa è la stessa dei tempi dei vecchi vagoni con le panche di legno, ma tutto scorre via fin troppo veloce. Tanto si è guadagnato, ma tanto si è anche sacrificato sull'altare di uno di quegli idoli della nostra epoca che è l'ottimizzazione. Non ci sono più gli scompartimenti, piccoli appartamenti in cui si era costretti a convivere e si finiva con il familiarizzare volentieri, con lo scambiarsi confidenze e indirizzi. Sul Frecciarossa non si comunica, anche se paradossalmente dei colleghi di viaggio finiamo con il conoscere tutto. L'associazione fra l'alta velocità e il cellulare fanno sì che sul megatreno del XXI secolo la privacy sia un optional non disponibile. Oggi una carrozza più che una carrozza pare l'open space di un'azienda, i posti a sedere come tante scrivanie, ciascuna con il suo computer. Chi non batte sulla tastiera fa affari al telefonino. Non c'è nessuno che non sposti qualche milione di euro. Anche i coreani devono portare dei fatti, ammonisce ad alta voce il viaggiatore manager alla mia sinistra e che magari sta parlando con la suocera. Non senti nessuno scusarsi per un ritardo nei pagamenti e questo farebbe pensare che l'Italia, vista dall'interno di un treno ad alta velocità, sia diversa da quella reale. Invece è lo specchio fedele di un paese in cui a parole siamo tutti fenomeni. Dai tempi che cambiano si porta appresso il bello e il brutto. Avete ascoltato il reportage di Michele Brambilla dal titolo «Sulla saetta Milano-Napoli, riscoprendo il gusto di viaggiare», pubblicato dalla Stampa di martedì 13 dicembre. Avanti c'è posto! Un bel posto all'azienda dei trasporti pubblici di Roma, per brevità chiamata ATAC, a tempo indeterminato. E non serve un gran curriculum perché si entra per chiamata diretta dopo un colloquio, giusto per salvare l'apparenza. La lista, con parenti di destra e sinistra, è lunga, purtroppo lunghissima. E col passare dei giorni non si accorcia, ma si allunga. Tanto che adesso c'è da scartabellare, oltre che nella politica, anche nel sindacato. Figli, mogli, nuore, fidanzate, compagne. Fino a che c'è stato posto in vettura, l'ATAC e le altre aziende del trasporto pubblico hanno imbarcato soprattutto i parenti. Alla regola non è sfuggito il sindacato. Qualche esempio. Alberto Chiricozzi, segretario regionale della CISL, la sigla che ha più iscritti, ha la figlia e il genero dipendenti Cotral e il figlio all'ATAC. Luigino Pitaccio, anche lui CISL, ha figlia e nuora dipendenti ATAC. Mentre Danilo Granaroli, l'ex segretario regionale, si è limitato alla compagna. E così via, per UIL, CGIL, Sultrasporti, UGL e Faisa CISL, che come vedremo merita però un discorso a parte. Persino il dopolavoro ha la sua quota di parentado. Il presidente Mario Moroni ha due figli in ATAC. È raro trovare un leader sindacale, anche della più piccola organizzazione, che non abbia almeno un parente in organico in una delle aziende del trasporto pubblico romano e regionale. Con la fusione in ATAC SPA è diventata di nome e di fatto una casa madre, disvelando padri, figli e cugini. Giancarlo Napoleoni, segretario regionale UIL, ha praticamente riunito una famiglia. Figlia, figlio, nipote e fidanzata, tutti dipendenti ATAC. Mario Dolce, ex segretario UIL, può contare sulla presenza del figlio. E che dire della CGIL, che nella scala degli iscritti è seconda solo alla CISL. Alberto Murri, ex segretario, ha una figlia all'ATAC. Augusto Ammiraglia, che faceva parte della segreteria, un figlio. Eugenio Brusadin, segreteria CGIL, ha la compagna anche lei all'ATAC. Torelli, ex RSU, un figlio dipendente di Trambus Engineering. E infine, Valentina Reali non ha favorito nessuno, se non se stessa, passando dalla Camera del Lavoro direttamente all'azienda di Via Ostiense. Un sistema di quote non è mai esistito. Però è un fatto che la presenza in un'azienda da sempre politicizzata e sindacalizzata come l'ATAC spesso è proporzionata al numero di iscritti. Il Sultrasporti ne ha 200. e Antonio Pronestì, segretario regionale, si accontenta di un nipote discendente ATAC. Fabio Millock, segretario nazionale UGL, in questa parentopoli trasversale compare per la presenza della moglie e di un cognato, mentre Ivo Fabiani, RSU, ha una figlia assunta di recente. Il sindacato autonomo che è più cresciuto negli ultimi tempi è il Faisa CISL. Con 1.800 iscritti è il terzo a Roma e raggiunge le 300 adesioni considerando tutto il Lazio. Un'esplosione. Il segretario regionale Gioacchino Camporeschi è da 22 anni all'ATAC. Per 14 ha fatto l'autista. Nel 97 capeggiò la rivolta contro Rutelli. Fu accusato di aver distrutto una bacheca della CGIL e rischiò il licenziamento. Ora ha una moglie e una figlia in ATAC. Il presidente Fabio Moro, la compagna e la sorella, sempre all'ATAC. Avete ascoltato la lettura dell'articolo ATAC, le grandi famiglie dei sindacati, a firma di Claudio Marincola e pubblicato dal Messaggero di martedì 7 dicembre.